nuovo mixer digitale. Un misterioso fruscio sul canale 24. Voci e brandelli di notizie da una radio del domani. Questo è Canale 24. Reportage dal futuro di Maurizio Melis. Benvenuti a Canale 24, partiamo subito con la notizia che siamo riusciti a strappare questa settimana alla nostra misteriosa radio del futuro che ogni tanto, come sapete, riusciamo a intercettare. Sentite. L'attacco informatico ha interessato, secondo fonti ufficiali del governo cinese, circa 8 milioni di elettrodomestici, mentre i danni causati alle cose, sebbene ancora tutti da stabilire, sono valutati nell'ordine dei miliardi di dollari. Come noto, il virus informatico ha colpito esclusivamente elettrodomestici del gruppo industriale Cincin, uno dei principali del gigante asiatico, oggi al centro di forti tensioni per il mancato rinnovo contrattuale. Ne parliamo qui a 24.024 con due esperti. Quando parliamo di sicurezza informatica ci vengono in mente i casi WikiLeaks, il caso Snowden, la lista Falciani. Ecco perché abbiamo voluto con la nostra notizia dal futuro presentarvi invece uno scenario inedito che pure potrebbe diventare possibile con la diffusione della cosiddetta Internet of Things. Parliamo del fatto che sempre più dispositivi vengono messi in rete, dai contatori elettrici alle automobili, agli elettrodomestici, ai dispositivi medici. Un decennio fa, di fronte al fenomeno Second Life, c'era chi vaticinava la fine della vita reale sostituita da una sorta di pseudo vita virtuale. Ebbene, sta accadendo esattamente il contrario. Il mondo digitale che sta entrando prepotentemente nel mondo reale. Secondo il centro di ricerca consulenti della Gartner, entro il 2020 saranno connessi 26,5 miliardi di oggetti, ma ciò significa che anche il numero dei bersagli di possibili attacchi informatici è destinato a crescere esponenzialmente. Inoltre, molti degli oggetti che vedranno la luce nei prossimi anni andranno a formare il tessuto di base della cosiddetta Smart City. Parliamo di sensori e sistemi di telecontrollo per la gestione delle reti elettriche, dell'acqua, del gas, dei sistemi di illuminazione, degli impianti semaforici, di parcheggi smart e infrastrutture dedicate ai veicoli intelligenti. Ma con quali rischi? Bene, sentite che cosa ne pensa Igor Falcomatà, hacker ed esperto di sicurezza informatica. Le smart city introducono sicuramente delle criticità per quel che riguarda la sicurezza e in particolar modo la sicurezza informatica. È chiaro che la bilancia tra comodità e intelligenza della città va pesata poi con la bilancia della comodità per un terzo di portare dei disservizi, degli attacchi, delle cose di questo genere. Pensa l'esempio più banale alla rete di distribuzione elettrica. È chiaro che se io sono un terrorista, un ciberguerriero come li chiamano oggi, e voglio causare un disservizio, se riesco informaticamente a introdurmi nella rete di controllo di questo grid e fare in modo che si spenga, riesco a provocare un danno molto grande facendo poco. Ma gli esempi sono tantissimi. Uno sicuramente molto cogente, molto rilevante da qui a venire è legato, per esempio, a tutto l'ambito della sanità. Adesso come adesso la cartella sanitaria molto spesso è ancora cartacea, e questo poi tra l'altro provoca anche degli errori medici e cose di questo genere. Sicuramente la digitalizzazione della cartella sanitaria sarà un grosso vantaggio dal punto di vista della comodità e dell'utilizzo, ma comincerà a comportare anche dei rischi, paradossalmente addirittura per la salute. Cosa succede se un malintenzionato entra nel sistema informatico del mio ospedale dove sono in cura e modifica sulla mia cartella sanitaria le prescrizioni di medicinali, oppure interferisce con qualche macchinario che mi sta tenendo in vita? Le automobili sono anche loro coinvolte in questa internetizzazione di tutto, per cui da un lato ci sono già state trovate delle vulnerabilità, delle automobili che è possibile aprire o con lo smartphone o comunque con strumenti evoluti. E dall'altro lato arriviamo addirittura fino alla guida automatica, no? Google è un campione in questa cosa qua. Cosa succede se un attaccante riesce a inserirsi nel sistema di guida automatica del mio taxi, della mia automobile del futuro, e la fa andare a sbattere contro un'altra automobile o investire qualcuno? Ma le possibili minacce alla sicurezza informatica dovute alla sempre più ampia diffusione di oggetti cosiddetti intelligenti, quindi come tali connessi più o meno direttamente alla rete internet, non sono tema che riguardi soltanto il futuro. Sentite cosa ci racconta la prossima scheda. Con la sempre maggiore diffusione di sistemi telecontrollati e la vertiginosa crescita dell'Internet of Things, si moltiplicano le vulnerabilità agli attacchi informatici. Solo per citare alcuni casi dell'ultimo anno, Sami Kamkar, ricercatore nel campo della sicurezza informatica, ha mostrato come sia possibile convertire un gioco della Mattel, ormai fuori produzione, in un apparato in grado di aprire facilmente i portoni di garage automatici che utilizzano codici fissi. La Context Information Security è stata invece in grado di infiltrarsi in una rete Wi-Fi domestica, sfruttando un sistema di luci a LED del tipo connesso alla rete, che consente un controllo remoto di accensione e spegnimento. Ricercatori dell'Università del Michigan, con l'autorizzazione delle autorità locali, sono entrati in un centinaio di semafori collegati con rete wireless utilizzando un semplice laptop, riuscendo, per esempio, a creare percorsi con luci sempre verdi come nei film d'azione. Frank Lee, professore presso la Drexel University, e il suo team hacker hanno trovato il modo di infiltrarsi nel sistema di illuminazione esterna di 29 grattacieli storici di Filadelfia, trasformandoli in immensi Tetris con cui hanno fatto giocare i passanti. Preoccupante invece quanto accaduto nell'estate 2014, quando un gruppo di hacker russi, noti come Energetic Bear, ha compromesso la sicurezza di oltre 1000 aziende energetiche europee e del Nord America, riuscendo a prendere il controllo delle schede elettroniche SCADA, adibite al controllo e monitoraggio di apparati fisici industriali di ogni tipo. Uno scenario simile a quello raccontato in un poco rassicurante romanzo del 2013, Blackout. Il fenomeno dell'Internet of Things di cui stiamo parlando e che sottende a sua volta quello della Smart City è pervasivo, ma ancora non è generalizzato. Ha una dinamica esplosiva, ma è ancora recente. Siamo cioè in una fase di transizione e questo significa, da un lato, che l'Internet of Things non è ancora un bersaglio grosso per chi vuole mettere a rischio la sicurezza informatica, ma dall'altro questo significa anche che la vulnerabilità è al massimo, per il motivo che Falcomatà ci spiega e che spiega anche molte delle debolezze di cui abbiamo parlato finora. Sentite. Nella cosiddetta Internet of Things, ovvero l'internet di tutte le cose connesse, uno dei problemi è che molti di questi apparati, sia che siano sviluppati ex novo, sia che siano, come capita molto spesso, delle tecnologie che sono nate addirittura prima di internet o comunque non avevano a che fare con internet, uno dei problemi più grossi appunto è che questi oggetti non sono pensati per stare su un ecosistema tra virgolette crudele come quello di internet, cioè internet è una rete dove in automatico ci sono ogni giorno centinaia di migliaia di attacchi. Se tu prendi un oggetto che è sempre stato pensato per stare in casa tua e lo metti in strada, i livelli di sicurezza di questo oggetto magari non sono adeguati a essere accessibile a migliaia o decine di migliaia o milioni di persone. Qualche tempo fa un ricercatore di sicurezza aveva fatto una scansione, una ricerca su internet di specifici apparati di controllo industriale e ne aveva identificati oltre 150.000 che erano direttamente raggiungibili su internet, quindi direttamente da internet, e senza protezioni adeguate, cioè chiunque diciamo identificasse uno di questi oggetti semplicemente cercandoli su internet poteva collegarsi e modificarne le configurazioni, modificarne il funzionamento, spegnerli e così via, e stiamo parlando di interfacce verso, non so, centrali elettriche, verso apparati di controllo industriali, verso semafori, verso tutte queste cose qua. Insomma, la sicurezza costa tempo e denaro, mentre tutti vogliono approfittare del boom, il mercato dell'Internet of Things cresce a doppia cifra da anni. Così alcuni costruttori non stanno operando a un livello di sicurezza adeguato e questo riguarda sia oggetti che introduciamo in casa nostra, sia infrastrutture cittadine che vengono connesse alla rete. Portare tutti questi dispositivi allo stesso livello di sicurezza raggiunto da telefonini, laptop e carte di credito sarà la partita dei prossimi anni. E guardando più in là, una speranza per giungere a trasmissioni di dati intrinsecamente sicure viene dalla cosiddetta crittografia quantistica. E proprio in questo campo c'è una notizia recente che riguarda la ricerca nostrana. Sentite. È italiana la prima trasmissione quantistica satellitare. L'hanno effettuata insieme l'Università di Padova e il Centro di Geodesia Spaziale di Matera, che con questa impresa, oltre ad approdare sulle pagine di Physical Review Letters, una delle più importanti riviste scientifiche, hanno anche battuto il record di distanza per una trasmissione quantistica. 1700 km di distanza contro i 144 del record precedente. Le trasmissioni quantistiche si basano sul comportamento elusivo che materie ed energia esibiscono quando si scende su scala atomica o subatomica e sono di estremo interesse perché considerate inviolabili, il sacro graal della sicurezza informatica. In teoria, infatti, lo scambio di dati quantistici non può essere intercettato senza distruggere l'informazione stessa o perturbarla in modo evidente. Siamo però in una fase ancora altamente sperimentale, tanto che al momento non esistono satelliti dotati di ricevitori e trasmettitori quantistici. L'esperimento è stato reso possibile grazie al più preciso laser per misure geodetiche al mondo, che si trova appunto a Matera. Da lì un fascio laser è stato sparato su un satellite dotato di retroriflettori che lo hanno rispedito verso la Terra, dove è stato captato da una stazione ricevente. Chi lo sa, forse un giorno avremo davvero a disposizione la crittografia quantistica per scambiarci dati in modo intrinsecamente sicuro. Ma oggi quali sono i pilastri della sicurezza informatica? A tal proposito sentiamo ancora una volta il nostro esperto di sicurezza informatica, Igor Falcomatà. Dal punto di vista tecnologico, per mettere in sicurezza tutti questi oggetti, la base è sempre la crittografia, cioè la impossibilità per un terzo, anche se vede il mio flusso di dati, di capire che cosa c'è dentro e soprattutto di modificarlo per adattarlo ai suoi scopi. Da un'altra parte ci si sta muovendo anche sull'ambito legislativo, sia per regolare la ormai forse ex privacy o quello che è, sia per introdurre dei requirement, cioè dei requisiti base di sicurezza per tutta questa serie di oggetti. Pensa, non so, probabilmente gli ascoltatori la conoscono, alla legge sulla privacy che è stata fatta in Italia, che imponeva anche dei requisiti minimi tecnologici di sicurezza, la lunghezza delle password, il cambio delle password, eccetera. Ecco, tutti questi concetti si stanno cercando a livello legislativo di applicare a tutto quello che ha a che fare con l'informatica. Le due strade sono una tecnologica e una di normativa. Siamo in chiusura. Che dire? Beh, è la prima cosa che si trova scritta su qualunque manuale di sicurezza informatica è che quest'ultima non può essere provata. Insomma, non è possibile concepire sistemi del tutto sicuri. Prepariamoci a una lunga lotta fra guardie e ladri. Noi ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima. Da Maurizio Melis, buona continuazione qui su Radio 24.